proprio fatte dalle assicurazioni che ovviamente non volevano pagare quelle cose, quindi era una merce a tutti gli effetti, questo fino all'inizio dell'Ottocento, quando per prima poi l'Inghilterra viene elimina insomma la tratta degli schiavi, ma siamo già al 1807-8. Sono stato impressionato da quanto queste date siano recenti. La schiavitù, non la tratta, cioè non il commercio, ma la schiavitù in quanto tale, come istituzione, viene eliminata nell'America tardissimo. Infatti. Cioè, negli Stati Uniti viene eliminato dopo la guerra civile, cioè nel 1865, diciamo formalmente eliminata, in Brasile, come ho già detto, nel 1888. Sì, sì, ma... In altri paesi dura, fra l'altro, è durata anche nel Novecento, no? Cioè, poi continua anche come tratta illegale, no? Per molto tempo. Sì, sì, ma perlomeno illegale, ma l'aspetto legale è veramente da brividi. Tra le varie date ho visto ad esempio che uno stato molto vicino a noi, il Portogallo, ha abolito la schiavitù nel 1869, cioè l'altro ieri. Sì, anche l'Europa l'ha eliminato molto tardi, cioè l'Inghilterra lo fa relativamente, prima la Danimarca, in realtà qualche altro prima, e poi l'Inghilterra già all'inizio dell'Ottocento per effetto di fenomeni anche interni, di movimenti abolizionisti che avevano anche una base politica, filosofica, religiosa, e anche, questa è una cosa che mi preme sottolineare, e anche un impulso degli stessi ex schiavi africani che si erano, diciamo, emancipati e avevano cominciato a svolgere anche attività di tipo intellettuale, ed erano abbastanza, un numero non così piccolo nella Londra di fine 700 inizio 800. Ci sono storie molto belle, alcune delle quali vengono anche raccontate dentro la mostra, insomma. Alla conferenza di ieri ho appreso che è dal 1500 più o meno che la schiavitù dipende sostanzialmente dal colore della pelle e vengono a crearsi vari gradi, per così dire, gerarchici, che dipendono appunto dal colore della pelle e quindi sono inseriti in una cultura della razza. Sì, questo è uno degli altri effetti potentissimi che distingue questo tipo di tratta schiavistica da altre forme di schiavitù precedenti. Schiavitù naturalmente è esistita molto prima, lo sappiamo, esisteva in antica Grecia, a Roma, esisteva nel Mediterraneo, esisteva nel mondo arabo, esisteva appunto tra i corsari, i pirati mediterranei, esisteva nel mondo slavo, tant'è vero che il termine schiavo viene da un termine che è slav, che è il termine che indicava gli slavi, cioè persone di realtà di colore bianco, no? Poi adesso usare il termine razza, io sono anche un po' imbarazzata, perché insomma è un termine che in realtà non si dovrebbe usare perché non ha nessun fondamento scientifico, però ci dobbiamo capire e quindi continuo a usarlo. Quello che succede con la tratta schiavistica atlantica verso le Americhe è appunto anche questo passaggio che si forma nel tempo, cioè man mano che si sviluppa i due termini, schiavo e nero, diventano praticamente sinonimi, sono strettamente associati, cioè l'elemento di schiavitù è sempre più associato a un elemento di colore della pelle e a una condizione che è quella dei neri africani, soprattutto, che viene inferiorizzata, cioè c'è anche nel Settecento emerge anche un razzismo scientifico, cosiddetto scientifico, che cerca di determinare superiorità e inferiorità delle razze a base al colore della pelle, attribuendo le caratteristiche appunto di superiorità e inferiorità anche morali, no? Non solo. Sì, sì. C'è una serie di caratteristiche, cioè, per esempio il nero pigro, no? Il nero che danza, ma c'è tutti questi stereotipi che ancora oggi noi ci ritroviamo. Certo. E su questo si costruisce man mano quello che è stato chiamato da alcuni studiosi l'ordine atlantico, no? Cioè un ordine globale atlantico che mette insieme le società africane, le società americane soprattutto, ma anche quelle inglese per esempio, dove si cristallizza questa divisione tra le razze, nel senso però di gerarchia, cioè qualcuno che è superiore, qualcuno che è inferiore, come se fosse una cosa naturale, no? Certo. Questo fatto. Pensi che per molto tempo, insomma, nel corso dei secoli della tratta, si discute anche se gli schiavi avessero o non avessero un'anima, quindi c'è anche un dibattito anche religioso attorno a questa questione, no? E questo è, come dire, in fondo una cosa che ci ha spinto a fare questa mostra. E questo è un problema ancora oggi molto attuale, no? Lo vediamo nei luoghi comuni, negli stereotipi, anche sui migranti, sì. Quindi andare a cercare le radici anche di questo tipo di atteggiamenti culturali che ancora permangono da noi, no? Da sì, anche perché appunto da noi non c'è lo schiavismo, ma c'è il caporalato che è una via di mezzo. Certo, certo. E su questo ci sarà tra l'altro un incontro da metà maggio di due studiosi su nuove schiavitù, forme di caporalato e quanto si può ancora definire schiavitù o usare. Se non usate termini, comunque quali sono i riflessi appunto di questa situazione ancora oggi. Infatti,